Caro Milan, non ti smentisci mai, sei sempre il solito ipocrita. Radio Kabul. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Che poi secondo me c'è anche un po' di gusto sadico da parte della redazione, soprattutto di Lorenzo Nespoli, devo dirlo, di scegliere queste presigle sempre per mettermi a mio agio per iniziare la trasmissione molto bene, molto serenamente, con persone che mi vogliono bene, mi accolgono, mi abbracciano, empatizzano con me. Buongiorno cari ascoltatori, uno nessuno 100.000 in diretta fino alle 11 come di consueto. Con Lorenzo Nespoli, l'ho già salutato, anche se lo dovrei bistrattare, lo faccio a distanza. Elisabetta Fusconi, che è lì a fianco a Carmelo Lauricella in regia, signori, meno male che domani se ne va e torna all'Alpino. E Miriam Lucchetti, siamo qui distanti ma uniti. C'è anche Vestagliona Manera che arriverà tra poco. Allora, cari ascoltatori, 800 24 00 24. Oggi abbiamo tanti ospiti che si succederanno, tante tematiche da affrontare, da questa vicenda dei mafiosi, avete sentito poco fa il procuratore antimafia Cafiero De Raho, abbiamo la questione delle riaperture dei negozi, vorremmo ritornare con il professor De Donno sulla questione della plasmaterapia, ma il professor De Donno è introvabile, è in silenzio stampa, la vicenda è diventata politica. Tutto in Italia deve virare a un certo punto verso strade che io veramente fatico a seguire e poi rischio di dire, di abbandonarle e dire vabbè, ma andate al diavolo, perché è diventata tutta una questione di battaglia politica anche questa cura sperimentale, cura da verificare della plasmaterapia. Niente, e in Italia è così, deve sempre andare più o meno così, purtroppo. E comunque torneremo su questo, torneremo su altre tante tematiche. Avremo ospite la presidente del comitato delle vittime del ponte Morandi. Insomma, come sapete, fino alle 11 vi teniamo compagnia e voi tenete compagnia a noi in tanti modi diversi. Vai Carmelo, vai Carmelo. Enthusiasm about the future. Intanto devo dire che la notizia che più mi ha colpito, non ho una posizione ben precisa perché io sono tendenzialmente, come dovremmo essere tutti, rispettoso delle regole. Però vedere le multe ai ristoratori in piazza che protestavano a Milano contro questo blocco, che dicono loro ci sta piegando, ci sta annientando economicamente. Tra l'altro, dramma dei drammi, questa volta però a Cercola avete visto un imprenditore che si è tolto la vita e lo ha fatto nel proprio luogo di lavoro, lasciando lettere alle figlie, alla moglie, non sapendo come tirare avanti, non sapendo se era in grado più di pagare i debiti. Comunque, quella è una vicenda drammatica e diversa. Ma vedere queste multe ai ristoratori milanesi che protestavano facendo un flash mob, distanziati, peraltro avevano avvisato anche le forze dell'ordine, avevano avvisato di questa manifestazione, cioè proprio chiusi, gabbati e multati. Non lo so, a me quando la legge, per carità, rispetto delle regole, diventa così inflessibile, avranno forse sbagliato, avranno violato uno dei 75 DCPM al comma 2 articolo 3 74 barra bis, certamente avranno fatto una sorta di assembramento, gli assembramenti sono vietati. Però, multati, io non lo so cosa ne pensiate voi, a me ha molto, molto colpito e devo dire un po' negativamente, erano lì a dire qui stiamo fallendo tutti, se non riapriamo falliamo, e già che ci siamo dateci anche 400 euro di multa, lo Stato è intervenuto attraverso le forze dell'ordine e li hanno multati, e va bene, assembramenti vietati, sicuramente sì, dal punto di vista, in punta di diritto sì, l'assembramento era vietato. E a lei. Dopodiché mi colpisce anche questa vicenda delle mascherine a 50 centesimi più IVA, diciamolo sempre, più IVA, se no poi dopo giustamente già i farmacisti si lamentano perché vengono additati a ladri, farabutti, cosa che non sono, devono fare il loro ricarico visto che sono dei lavoratori, hanno delle imprese, però dato di fatto che queste mascherine, molti ci scrivono, io le ho trovate, sì, ma non sono state distribuite da lunedì scorso in tutta Italia, in tutte le farmacie, come aveva detto il commissario Arcuri che sarebbe stato. E quindi la gente adesso entra nelle farmacie, le vuole pagare 50 centesimi più IVA, d'accordo, e questo è l'altro tema, però la questione è che sono 61 centesimi e queste non si ritrovano. Giustamente subito una sfida Lucchetti parte dicendo che protestavano non tanto e non solo per la mancata apertura, ma anche per le regole che dovranno tenere questi ristoratori in piazza. Però insomma, protestavano intanto anche per la sensazione di affossamento dell'economia che in questo momento rischiano assolutamente. Allora, tra l'altro su questo io vorrei convocare il mio primo ospite. Tra l'altro c'è anche una sfida Lucchetti contro sfida Fusconi, perché ragazzi, io devo dire, siccome sono a casa nella ridotta di Viale Monza e vedo la schermata nella quale la redazione mi scrive delle cose, però non è che posso interpretare se me lo scrive Lucchetti o se me lo scrive Fusconi, perché sulla schermata non c'è l'ortografia. Potrei essere esperto di ortografia, ma sulla schermata non c'è neanche l'ortografia, non si distingue, e quindi quando io vedo una scritta, per me in genere è sfida Lucchetti, stavolta era sfida Fusconi. Comunque, a parte questa questione poco importante, il primo ospite che è con noi è un sindaco. Il sindaco Alan Fabbri, che saluto, buongiorno, della buongiorno, Lega. Siamo... Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno, grazie sindaco. Siamo a Ferrara perché si discute sempre di riaperture e riaperture. Senta sindaco, ma ha visto che anche il premier Conte adesso dice forse riapriamo prima, lei invece vorrebbe riaprire ancora prima, ecco, vorrebbe dall'11 maggio addirittura. Beh, diciamo che nei giorni scorsi ho firmato un'ordinanza relativa alle attività commerciali in sede fissa che vendono ovviamente a carattere merceologico, quindi negozi di abbigliamento, scarpe, bigiotteria, eccetera, eccetera, e a seguito anche di alcune considerazioni che abbiamo fatto su un basso tasso di positività del nostro comune, della nostra provincia, e anche abbiamo ragionato per analogia con altri negozi simili, come ferramente, come negozi per bambini che vendono abiti e così via, ci sembrava una cosa giusta. Ovviamente è stato fermato il tutto, come ha letto anche lei, dal prefetto ieri, e stiamo riflettendo con i nostri uffici legali sul da farsi. Questo infatti è il tema, perché è il classico scontro di poteri, cioè quando si sente dire l'Italia è unita e non bisogna procedere per operazioni singole da parte delle regioni o delle amministrazioni, in questo caso addirittura dei comuni, lei non è un po' d'accordo, perché sennò è un po' il caos, cioè ogni sindaco può decidere quello che vuole. Sono stato ovviamente ho eseguito tutte le ordinanze che sono arrivate, sia da parte della Regione che i decreti del Presidente del Consiglio. In una fase d'emergenza credo che ci sia il dovere da parte di tutti noi amministratori di portare avanti quello che viene deciso a livello centrale. Così come sono stato anche il primo in questa Regione a chiudere l'università, perché l'abbiamo chiusa il 21 febbraio. Mm. Abbiamo 10.000 veneti che provengono principalmente dalle zone del Padovano, quindi ringrazio anche il Rettore per aver appoggiato questa scelta, così come abbiamo chiuso parchi e cimiteri per primi, abbiamo dato le mascherine per primi in questa Regione, e abbiamo anche fatto l'ordinanza con l'obbligo d'accesso ai negozi aperti di utilizzare la mascherina, e quindi ci siamo mossi ovviamente per tempo. A maggior ragione rivendichiamo in questo momento di ricostruzione post-coronavirus, la possibilità di avere degli esempi pilota in alcune realtà che sono state poco colpite dal coronavirus, di poter riaprire. Consideri che ad oggi noi abbiamo 94 casi positivi su una popolazione di 140.000 abitanti. Quindi lei dice bisognerebbe in qualche modo dare lo spazio a chi ha pochi casi di poter riaprire. Io lo vedevo anche come un esempio pilota, mi sono confrontato anche con il presidente Stefano Bonaccini, che anche se siamo su due lunghezze d'onda politiche diverse, abbiamo sempre cercato di costruire insieme questo sistema sia di emergenza che adesso anche di riapertura. Credo che si possa dare la possibilità, attraverso anche un'apertura anticipata di una sola settimana, di capire bene quelli che sono i protocolli, di fare anche educazione, oltre che alle persone, anche agli stessi commercianti, che dovranno affrontare comunque una sfida difficile, che è quella del contingentamento delle persone, dell'educare anche le persone da questo punto di vista. Sì, è che lei, sindaco, è stato duro, cioè ieri su Facebook ha scritto il governo ha bloccato la sua ordinanza, quando il prefetto praticamente ha bloccato l'ordinanza, ha definito questo un nuovo attacco all'Italia. Guardi, e alle categorie economiche che sostengono il paese. Abbiamo fatto varie cose a Ferrara, nell'autonomia, a mio avviso, che ci compete, come anche la decisione di escludere certe categorie come i richiedenti asilo dai buoni spesa alimentari che il governo ha messo in campo. Sì. E la nostra proposta di ordinanza adesso per la riapertura, a mio avviso, abbiamo anche chiesto di fare un protocollo condiviso con le associazioni di categoria, anche per essere più tranquilli dal punto di vista sanitario. Speravo che ci fosse una visione lungimirante da questo punto di vista, che fosse, ripeto, qualcosa da cui si potesse partire. Purtroppo questo governo annuncia molto spesso tante cose, ma poi nei fatti ancora non abbiamo capito cosa si vuol fare. Capisco che si aspetti il dato anche della fase 2 a seguito del lockdown, però queste persone che hanno delle attività commerciali, che in tanti casi non sanno neanche se riaprono o no, non possono rimanere nell'incertezza di non sapere quello che capita. Probabilmente può essere vista come una provocazione, per l'amor di Dio, però noi crediamo fermamente che rilanciare anche una città come la nostra sia importante. Consideri che forse magari non una provocazione, però dire se riaprono tante attività il 18, farle riaprire l'11, cioè 7 giorni prima, forse sì, più che una provocazione è stata dire vabbè, ma allora si sveglierà un altro sindaco e dirà io il 12, un altro io il 10, guardi, a colpi di ordinanza. La regione Sardegna, che ha un ordinamento ovviamente di statuto autonomo rispetto autonomo, alla Germania, ha dato la possibilità ai sindaci di poter concordare le riaperture di questo tipo di esercizi, e io non sto parlando di bar, ristoranti, parrucchieri, barbieri, che quelli ovviamente hanno dei protocolli diversi rispetto a dei commerci al dettaglio, come sto dicendo io adesso. Quindi siccome anche Bonaccini parla molto spesso d'autonomia, pensavo che questo potrebbe essere un progetto pilota. Esatto. Però visto adesso noi lavoreremo su esatto questo. Perché il prefetto l'ha bocciato, lei ha detto vedremo adesso cosa fa, cioè cosa succederà secondo lei l'11? Guardi, adesso niente adesso oppure confronterò. Oggi la giornata secondo me è un po' clou da questo punto di vista. È ovvio che non voglio mettere in difficoltà nessuno, perché se il grido di dolore di queste persone non viene ascoltato e non viene neanche ascoltato il parere di un sindaco e rischiano queste persone di incorrere in sanzioni, sono il primo a fare marcia indietro. Però vorrei ben capire effettivamente sia Bonaccini cosa dice. Se Bonaccini riesce a capire questo percorso, magari si può attuare qualcosa in accordo con lui, ecco. Diciamo certo, che se abbiamo vediamo. Chiesto 100, se otteniamo 50 a livello politico è un buon risultato. E siccome vediamo, purtroppo, dottore, io ho già vissuto un'emergenza, che è quella del sisma, perché ero sindaco di un altro comune durante il sisma del 2012 in Emilia, so che in queste fasi di emergenza arrivare anche un po' prima per quello che riguarda la ricostruzione è importante. È importante. Allora, nel salutarla e vedere cosa succede oggi, le faccio un'ultima domanda. Non so se lei sia tifoso di calcio, ma voglio dire, visto che a Ferrara c'è la Spalla in Serie A, beh certo, quindi c'è la Spalla. Lei è di che partito è? Non Lega, certo, ma del partito sospendiamo tutto e ovviamente congeliamo magari le retrocessioni, che in questo momento alla Spalla farebbe anche comodo, oppure si riparta? Cosa vuole da tifoso e da sindaco? Ma guardi, io mi sono confrontato col presidente Mattioli, che è il presidente della SPAL, qualche settimana fa, perché ovviamente è una realtà per noi importante, al di là del cuore calcistico, anche dal punto di vista economico e produttivo, e mi ha raccontato un po' delle difficoltà che ci sono per cercare di far ripartire questo campionato. È ovvio che se guardiamo le squadre di calcio più grandi, che hanno molte più risorse e sì, si attendono ovviamente di mantenere i bilanci che hanno, è un discorso. Realtà più piccole come la nostra, che tra l'altro appena cambiato l'allenatore, che saluto anche l'allenatore di Biagio, che stava ripartendo, mancano 13 partite. Però siete penultimi, insomma, processi, ci dispiacerebbe molto. Noi cercheremo, a mio avviso, il campionato di calcio deve essere fatto con tutti i crismi del caso e la vedo molto difficile. Dice, se no sospendiamo, e ovviamente niente retrocessioni. Beh, si sospende, è l'auspicio. Ci mancherebbe. Finiamo la causa della spalla. Vabbè. Sindaco, grazie, tanto vedremo. Alan Fabbri è il sindaco della Lega di Ferrara, come avete sentito. Allora, voleva riaprire tutto l'11, il prefetto ha sospeso l'ordinanza di riapertura, quindi anche in questo caso c'è stato una sorta di scontro politico o istituzionale, meglio dire. Vedremo che cosa succederà lunedì prossimo. Intanto, quando sono le 9:22 minuti, c'è un altro tema che sicuramente sui giornali esonda, tutto devo dire, è nato dalla trasmissione Non è l'Arena di Massimo Giletti, che da qualche settimana si sta concentrando su questa vicenda delle scarcerazioni in realtà per trasferire dal carcere agli arresti domiciliari di numerosi anche boss della criminalità organizzata, che per via di queste vicende legate al coronavirus, legate alle situazioni sanitarie, legate alla avanzata età anche di questi boss che riescono a uscire dal carcere. Ora, avete visto sui giornali, avete sentito anche poco fa il procuratore antimafia Cafiero De Rauda, Simone Spezia e Marelatella. C'è una sorta di dietrofront: il ministro Bonafede vuole riportare in carcere tutti coloro che sono usciti. Vedremo questo come andrà a finire, e sapete che su questo si è innestata anche una polemica politica feroce tra il PM antimafia Di Matteo e lo stesso ministro. Io voglio salutare una persona che queste vicende le conosce molto bene, anche perché le segue e purtroppo le vive anche sulla propria pelle. Si tratta di un collega, Paolo Borrometti, vice direttore dell'agenzia AGI, che è con noi. Buongiorno Borrometti. Buongiorno. Allora, Paolo Borrometti varie volte già intervenuto anche su Radio 24, forse la vicenda la conoscete, è sotto scorta di fatto, perché minacciato in maniera concreta. Leggevo nei giorni scorsi che una delle persone che ti ha minacciato è anche uscita, adesso non so se sia rientrata, non so se com'è la situazione dal punto di vista personale, se mi permetti di iniziare da qui. Ma il punto di vista personale mi interessa veramente a pochi. Qui non è una questione personale, se mi permetti, no? Sì, una delle persone, dei boss che ha processo, 21 processi oramai purtroppo famosi, è uscita ed è andata ai domiciliari, ma il problema è molto più complesso e non riguarda certamente Paolo Borrometti, ma riguarda tutto quello che è successo in questi mesi, perché con la scusa del coronavirus sono accaduti fatti veramente gravi, che probabilmente, se mi dai la possibilità, andrebbero messi in fila, perché altrimenti non si ha un adeguato riscontro di quello che è accaduto. Poi ognuno ovviamente si farà la propria idea. 21 febbraio scoppia l'emergenza concreta coronavirus. 9 marzo le rivolte in tutte le carceri, in quasi le carceri, le ricordiamo, italiane. Va ricordato, perché non è un dato secondario, non sono rivolte spontanee. Siccome partono tutte nello stesso momento, no? E allora significa che c'era un'unica regia. E siamo al 9 marzo. 21 marzo, circolare del DAP firmata dal direttore, in cui si chiede a tutti i direttori degli istituti penitenziari di segnalare i boss o comunque i carcerati che abbiano patologie o più di 70 anni. Sì. Questa circolare rappresenta lo spartiacque, perché da quel momento in poi, con la segnalazione nei fatti dei detenuti che hanno più di 70 anni o comunque che hanno delle patologie, iniziano i ricorsi. No? Sì, ricordiamo che nel frattempo quel direttore del dipartimento si è dimesso, comunque è stato sostituito, però quello è il momento e conseguenzialmente le persone sono uscite dal carcere. Questo è il dato di fatto. E adesso io mi interrogo e vi interrogo, siccome sono usciti molti boss tra i 376 famosi, la lista, attenzione, risale al 28 aprile, quindi probabilmente negli ultimi 10 giorni eppure molto più, come dire, importante in numeri. Ma al di là di questo, mi chiedo e vi chiedo, ad esempio il 41 bis, per chi non lo conoscesse, il 41 bis dell'ordinamento penitenziario è l'assoluto isolamento in carcere, quindi sotto il profilo del contagio non c'è nulla di più sicuro del 41 bis, perché essendo il detenuto capomafia in completo isolamento non può chiaramente incontrare nessuno, quindi il contagio chiaramente viene meno. Ora, dare la possibilità ai detenuti al 41 bis di uscire dall'isolamento e di andare in carcere, magari a Brescia, come è accaduto, che è uno degli epicentri del coronavirus, ecco, già questo di per sé è un paradosso. No, ma poi spesso, Borrometti, ne abbiamo parlato anche qui, ovviamente molti ci hanno scritto con il classico atteggiamento: quelli sono animali, quelli non sono esseri umani, dovrebbero essere trattati male, dovremmo buttare la chiave, dovremmo ucciderli, insomma. Questo è sbagliato, questo mai, però c'è modo forse per curarli e trattarli in maniera adeguata senza mandarli a casa, ecco. Assolutamente, lo Stato, siccome non ha nulla a che vedere con le organizzazioni parastatali, quindi le mafie, deve garantire la dignità e ovviamente la salute di qualsiasi persona, sia essa il peggior criminale dello Stato, ma va garantita la dignità e la salute. Ma il problema è che quella dignità e quella salute, no, sono assolutamente garantite. Ora, come mai sono usciti quasi 400 boss e non sono usciti invece dal carcere dei delinquenti comuni, magari il ladro di galline? Ecco, è questa la cosa che a me inquieta e che domando ad alta voce, perché è un però inquieta, Paolo, inquieta, però c'è la domanda che pongo io a te, cioè perché messa così, non lo hai detto, ma sembra quasi che ci sia una strategia, chi è che all'interno delle istituzioni può avere una strategia di favorire la mafia? Io voglio pensare in genere nessuno, purtroppo a volte non è così, non sto dicendo che sia questo il caso, però chiedo a te che strategie ci sarebbe sotto. No, allora, io non mi stavo assolutamente riferendo a una strategia di qualcuno all'interno del DAP piuttosto che al Ministero di Grazia e Giustizia, ci mancherebbe altro. Certamente la strategia c'è stata da parte dei boss quando iniziano quelle proteste, quello è un dato oggettivo e spero che prima o poi le indagini faranno chiarezza. Siccome tutto inizia da lì, no? E allora strategia certamente no, ma a chi ha forse sottovalutazione, forse disattenzione. Questo certamente, e poi da giornalista, noi da giornalisti dobbiamo fare le domande, allora la domanda rimane la stessa che ho fatto prima: perché un detenuto al 41 bis che è in assoluto isolamento viene fatto uscire e mandato a casa nell'epicentro del coronavirus, cioè a Brescia, uno dei territori più martoriati da questo dannato virus, e non lasciato invece in assoluto isolamento senza possibilità di contagio? Ecco, io da giornalista, perché i giornalisti devono fare domande, faccio questa domanda, certo, questa domanda. Ti chiedo se hai un'idea, ti sei fatto un'idea, come tutti gli italiani adesso hanno una opinione, quelli che hanno seguito, della vicenda di Matteo Bonafede. Ma guarda, io lo dico subito, per me Di Matteo è una istituzione del nostro paese, un magistrato che con coraggio e con schiena dritta ha fatto il proprio dovere, ha trattato processi dei quali nessuno probabilmente avrebbe voluto trattare, come quello trattativa tra pezzi dello Stato e la mafia. Non ho visto, e questo lo voglio sottolineare, ho sentito più volte le dichiarazioni di Di Matteo, io non ho sentito nelle sue parole la ricostruzione di tanti, cioè che lui abbia dato al ministro la responsabilità di una chissà quale influenza da parte dei boss. Lui ha posto degli interrogativi e quegli interrogativi... Sì. Come dice lui, lui dice io ho ricostruito dei fatti, cioè la chiamata, poi dopo quando è tornato il ministro che diceva no, nel frattempo ho cambiato idea. E infatti c'è un dato oggettivo, cambiare idea è assolutamente legittimo, questo lo dobbiamo sottolineare, ma non su Bonafede, ma su sul ministro Bonafede, ma su qualsiasi ministro che abbia o personalità che abbia responsabilità. Il problema però è che magari per sgomberare il campo da equivoci che il dottor Di Matteo non ha sollevato, ricostruendo i fatti, lo voglio ancora una volta sottolineare, probabilmente sarebbe opportuno dire quale sia stato il motivo del cambio di idea. Ecco, sì, probabilmente sì. Questo aiuterebbe a fare chiarezza, nell'assoluta certezza, questo permettimelo però, che siano entrambi in assoluta buona fede. Io penso ci sia stato un qui pro quo che però, siccome questo qui pro quo oggi è pubblico e getta ombre sulle istituzioni, ombre gettate non dal PM Di Matteo, ma appunto da tanti commentatori e tanti anche opinionisti a ragione, no? Dice almeno vada chiarito, che vada chiarito bene fino in fondo. Va chiarito fino in fondo per non lasciare ombre, perché in questo paese, diciamocelo, soprattutto in relazione al tema mafie, ci sono stati negli anni passati troppe ombre. Noi assolutamente non possiamo permettere punti interrogativi o zone grigie. Allora, io ti ringrazio, grazie Paolo Borrometi, vice direttore di Agi, su questa vicenda che, per la quale trovate oggi sui giornali tantissimi approfondimenti se volete seguirli. Allora, dopo la pubblicità ci sarà Leonardo Manera, c'è qualcosa da leggere ancora su questa vicenda della plasmaterapia, no? Perché anche qui i giornali si sono schierati, la vicenda è diventata molto politica, devo dire, a me un po' questo dà fastidio, però tant'è. Dai, tra poco. Uno, nessuno, 100 Milan. Senti Milan, io voglio dirti, io ho una gioielleria, sono in un piccolo centro cittadino, da noi quando entrano 10 persone in una giornata già è un successo, e se se ne incontrano 3 contemporaneamente spesso sono persone di famiglia che vengono insieme, ma mi sai spiegare per quale motivo io non dovrei riaprire? Il fatto che il professor De Donno non si sia reso disponibile a fare la star con l'intervista con voi è per me un attestato di serietà, contrariamente a quanto avviene per tutti gli altri nostri scienziati che stanno sempre in TV, ma quando lavorano. No, mi sono accorto che l'app di Radio 24 stamattina non va, io vi ascolto in podcast praticamente da 2 anni, vi ho quasi raggiunto, sono la puntata del 14 aprile. Fate qualcosa, fate mettere a posto l'app perché se no non riesco a raggiungervi. Caro ascoltatore, guarda, lascia perdere, lascia stare. Vengo io, ci penso io, vengo io a sistemare la sua app. Sì, vengo io. No, bisogna vieni, andare Leonardo. A casa sua. Ah no, bisogna andare lì, nella sede di Radio 24. Io non ci vengo da quando? Ah, ecco. Sì, anch'io era un po', forse. Anch'io era un po'. Vabbè, ho capito, ma tu mica... pensi di tornare? Tornerai sì, prima certo, di no, luglio? No, mando le dimissioni via lettera, no? Sì, certo che penso di tornare. No, dico prima di luglio, prima di metà luglio, di fine luglio. Ma penso proprio, sai. sì, dai, il mondo riapre, ma... sono tornati i caffè da sporto, adesso hai sentito, sì, la gioielleria giustamente vorrebbe riaprire... riapre tutto, cosa ho dai, notato lentamente. Ieri, cosa? Passeggiando per Milano, ho notato che molti negozi, magari per fare anche, per rimettere in ordine, per tenere pulito, però insomma hanno le porte aperte. Ecco, quindi c'è questo... Perfino il bar Jimmy. Ho rivisto ieri il signor Jimmy. Come sta? Del bar... Sta che non sta lavorando anche lui da più di 2 mesi. Già questa è una notizia. Sta, il signor Jimmy sta. Però per esempio ho visto tante agenzie immobiliari con le porte aperte, ho visto tanti negozi che tengono le porte aperte, magari non si può entrare, però riordinano e intanto insomma c'è questo segnale. Io ho visto anche, permettetemi questo sfogo, sul Quotidiano Nazionale oggi una pagina di quello che potrebbe succedere, io spero di no, quest'estate. La moda, per carità, siamo la patria della moda e lungi da me criticare la moda, ma ho visto che c'è il casco che sembra una roba di un cosmonauta russo, no? Il casco tutto in tinta, il trichini, cioè qualcuno vuol lanciare il trichini, cioè pezzo sopra, pezzo sotto e mascherina tutto abbinato. Io ti giuro, se incontro una donna con il trichini in spiaggia, non dico niente perché sono rispettoso eccetera, ma con gli occhi manifesto tutto il mio disprezzo. Ricordiamoci che portiamo la mascherina perché stiamo vivendo una tragedia, ci sono migliaia di morti. Invece c'è chi pensa a mettersi il trichini, magari abbinato, pezzo sopra, pezzo sotto e mascherina abbinata al trichini. Io ti giuro, il disprezzo totale. Classica notizia, da mani sul volante. Invece è un modo un po' per alleggerire il momento, può essere un modo ma tu li vedi a Singapore col trichini? Cioè, ma perché noi dobbiamo sempre farci... No. È una vergogna. Dai, sei un giustizialista. Va bene. Ma no, giustizialista, non faccio niente, non dico niente, non mi permetto di avvicinare né di usare male parole, non le uso, ma disprezzo, questo sì, concedimi il disprezzo, potrò disprezzare chi voglio, no? Avevi già comprato un trichini? Che se qualche ragazza vuole abbinare il bikini anche alla mascherina non c'è niente di male, magari si sentirà un po' più così legittimata anche nella sua vanità, che non è una cosa spiacevole. Io sono dalla parte delle donne che vogliono mettere il trichini, ma la vanità non su una tragedia. C'è la vanità, ma c'è quella roba lì, la mascherina la porti perché... Ma ho capito, guarda, sai qual è la verità? Sai qual è la verità? Non so cosa dirti. La verità è che io la penso come te, ma mi piace fare il bastian contrario. Questo volevo sentirti dire. Sentiamo Antonio da Sassari. Antonio, buongiorno. Ci chiama, credo. Ma mi hanno detto che lei è il garante dei detenuti? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno. Ah, buongiorno Antonio. Buongiorno, sì. Garante dei detenuti della Sardegna? Sono il garante... nello specifico della struttura penitenziaria di Bancali, da dove appunto, perfetto, sì, il caso Zagaria, ecco. Per intenderci, sì, certo. Beh, io ho avuto modo anche di parlare con la persona detenuta prima che insomma potesse essere mandato via. Vero è che ho seguito con profonda attenzione il passaggio del giornalista poc'anzi quando diceva: ma come mai in una struttura dove veramente il regime di 41 bis porta all'isolamento totale, è senz'altro il posto più isolato quello perché una qualsiasi persona detenuta possa, come dire, stare dentro una bolla a parte il contatto con la polizia penitenziaria, ovviamente. È indubbio. Vero è che la persona ha purtroppo una gravissima e qualificata patologia che richiedeva, ha subito anche un intervento chirurgico poco tempo fa e doveva essere monitorato costantemente, quindi uscire dalla struttura dei Balcani. dalla struttura però penitenziaria. Questo appunto è il tema, non si può curare, perché nessuno infatti dice di non curare una persona in carcere, ci esatto. sono anche, c'è anche quel tipo di atteggiamento, ma lo lasciamo, lo teniamo da parte, curarli, ma in situazione di sicurezza e di rispetto della sentenza e della pena che uno deve scontare. Assolutamente sì. E questo è preposto un servizio di assistenza intensiva, un acronimo SAI, che in tutta l'isola manca. E se è vero come è vero che la struttura di Bancali è, secondo il Ministero di Giustizia, posta in una come dire, condizione di struttura 1, e quindi dovrebbe essere presente questo importante servizio sanitario, manca. Quindi, manca. Ci vogliamo attenere fino in fondo all'articolo 27 della Costituzione, che in buona sostanza dice espiazione della pena ma con la dignità dell'essere umano? Mm-hmm. Sì, però lei ci sta dicendo che lo Stato dovrebbe attrezzarsi, cioè dovrebbe mettere a disposizione accolto quelle strutture. Esatto, quindi il signor Giletti, che è uno straordinario giornalista che sa catalizzare benissimo e conosce la PNL, e quindi deve fare share, ma insomma io ho una piccola laurea in psicologia e conosco e capisco e intuisco le dinamiche che il signor Giletti attua, ma attenzione, non ragioniamo solo con la pancia. Va bene, non ragioniamo solo con la pancia. No, la ringraziamo Antonio, ripeto, che è il garante del carcere da dove è uscito il boss Zagaria, e quindi il tema centrale, insomma, da ascoltatore ci ha chiamato e ci ha spiegato che non ci sono le strutture sull'intera isola per curare, trattare la persona in questione come deve essere trattata, e quindi o lo Stato si adegua così oppure in qualche modo hanno dovuto provvedere facendolo uscire. Un po' ribadito quello che diceva ieri Gian Piero Mughini, anche, no? Che diceva che certi problemi, certi non andrebbero affrontati nei tribunali televisivi. Ma probabilmente. Su questo, però, io devo dire una cosa: cioè, Giletti, secondo me, ha fatto il suo lavoro. Cioè, se c'è un'occasione per parlare di una cosa, non è che allora se esplode una polemica del genere in TV, dovrebbe censurarsi e dire no, di questo non se ne parla in TV perché parlatene al CSM o nelle sedi istituzionali. Cioè, se questa vicenda è tra virgolette esplosa mediaticamente in TV, ha fatto il suo lavoro, quindi io semmai sono le persone che non dovrebbero prestarsi ad andare in TV, sì, a fare questo tipo senso, di questioni, sì, in questo senso sì. Allora, Fusconi, credo, a questo punto non lo so, perché nella schermata della messa in onda della radio ormai non si dovrebbero firmare, però o Fusconi o Lucchetti a questo punto scrivono due uomini che parlano di trichini non si possono sentire. È Fusconi che l'ha scritto, due uomini che parlano di trichini non si possono sentire. Io continuo a dire che trovo irriverente questa ricerca della moda anche sulla mascherina, ma non la moda nel senso la mascherina colorata va bene, ma la moda vuol dire mettersi coi tre pezzi in spiaggia tutti coordinati, ma dai, su. Tu invece dici di sì. Sono dai, già insisti. Attirato sessualmente dalla questione, guarda. Allora, non riesco. Dai, dopo il traffico, due parole lo dobbiamo dire su questa cosa della cura al plasma, tra un attimo. Uno, nessuno, 100 Milan. Mi dispiace, ma purtroppo non sono d'accordo. Stanno male, se ne stiano in carcere. Perché se io rubo una mela me ne vado in galera, loro invece hanno ammazzato tante persone, per cui loro devono scontare la pena, punto. Se stanno male li curano in galera, tutto qua. Non è giusto, non lo trovo giusto, assolutamente. È proprio una cosa indegna. Ecco. Ma rispetto al suo problema di non poter riconoscere chi le scrive sul nostro schermo di scambio interno, non potrebbe chiedere alle sue colleghe di anteporre una L quando a scriverle Lucchetti e una F quando a scriverle Fusconi? Per esempio, potrebbe essere una soluzione. Comunque, Miriam adesso si è firmata, ha scritto una cosa. Comunque, non è la vanità delle donne, ma è il mercato, bellezza. Bellezza sei tu, ovviamente. Sì, ho capito, è sempre polemica contro di me, Miriam Lucchetti. Non capisco perché c'è questa sempre vena polemica. Mi odia, mi vede come un nemico sempre e comunque. Anche se non, se non mi vede più dai primi di marzo. Anche a distanza, sono nemico, sì, sì. Anche a distanza. Nemico da battere. Nemico da battere. Chissà perché. Allora, non lo so. Va bene, questa storia della cura al plasma. Abbiamo provato a chiamare anche oggi il professor De Donno. Tra l'altro l'ascoltatore prima ha detto, fa bene a non rilasciare interviste da voi, veramente era qua l'altro ieri professor De Donno, l'abbiamo richiamato ma in silenzio stampa perché sono spariti i suoi canali Facebook, non si capisce, mistero, ma è in silenzio stampa, quindi non sappiamo cosa dire. Certo, ti sottopongo, Leonardo, oggi la maca di Michele Serra, la riassumo molto, perché quando c'è una cura ma ce la nascondono, c'è sempre questo atteggiamento di imprecisati loro, scrive Serra, che non vogliono che noi stiamo bene, ci preferiscono malati, atterriti, deboli, ricattabili. Sì, ma loro chi? Loro. Da manuale c'è anche questa vicenda della plasmaterapia, qualcuno ce la nasconde. E poi giustamente dice Michele Serra, non si direbbe proprio, visto che se ne parla, insomma, è andato anche a porta, è venuto qui, è stato intervistato da vari giornali, De Donno, io domani vorrei tornare a parlarne con una dottoressa in Veneto, dove Zai ha detto faremo il centro per la plasmaterapia, non lo so, è che è diventata tutta una questione politica, Leo. Comunque l'ho letto stamattina, segnalo che nel sito di professor Burioni c'è proprio un articolo che parla della cura col plasma, per chi fosse interessato, sì. Medical Facts, può andare a leggere quello che ha scritto Burioni di questa cura. Esatto, che così, Burioni, è solo che una è stato segnalazione. Tratto, sì, no, ma è giusto, Burioni che è stato protagonista a distanza di qualche polemica, sempre col professor De Donno che adesso è introvabile, o meglio, sì, il cellulare squilla ma non risponde. È tutto un po' una questione misteriosa. Certo, a me dispiace, sai che ci hanno scritto anche un ascoltatore che ci ascolta dalla Malesia, dicendo che anche in Malesia si utilizza questa tecnica, anche in Cina. Non lo so, perché non si riesce in Italia a fare delle sperimentazioni cliniche, scientifiche, senza le polemiche annesse, per cui uno si deve adesso intitolare la responsabilità e di essere il capo di questa nuova cura. Ma perché? Perché noi siamo latini, veramente. Siamo latini, ci piace polemizzare, insomma, questo è il nostro carattere di fondo. Tu sei una persona polemica di fondo. Sono latino, ma io sono biondo. Ascoltarti biondo. Ogni mattina. Sì, ma io sono biondo, anche azzurri, sono più scandinavo. Quindi, vabbè, Leo, niente, sii un po' polemico, ti prego, adesso nel pezzo, ti prego. No, oggi, guarda, non voglio proprio polemizzare, ma parlare di tutt'altro. Allora, c'è un artista, si chiama Christo, dal quale probabilmente avete qualche volta sentito parlare. Christo è quello che qualche anno fa sul lago d'Iseo fece una installazione di una passerella di circa 4 chilometri, passerella arancione, che probabilmente molti di voi hanno avuto anche occasione di visitare. Si chiamava The Floating Piers. Christo però nel mondo dell'arte è noto soprattutto per altre opere, gli impacchettamenti. Christo cominciò impacchettando oggetti come scope, poltrone, biciclette e poi cominciò a impacchettare monumenti anche a Milano, dove nel 1970 impacchettò la statua di Vittorio Emanuele II in Piazza Duomo e il monumento Leonardo da Vinci in Piazza della Scala. A Roma invece impacchettò la Porta Pinciana e impacchettò monumenti in tutto il mondo. Perché a Christo piaceva impacchettare? Non perché fosse un nostalgico di Babbo Natale che a dicembre arriva con le renne e appunto con i suoi regali impacchettati. No, Christo impacchettava oggetti e monumenti perché era convinto che impacchettando noi paradossalmente potessimo vedere meglio quello che a quel punto ci era nascosto. Quando noi a Milano passiamo davanti alla statua di Vittorio Emanuele II, ci siamo abituati, non ci facciamo caso, la diamo per scontata, come il marito o la moglie dopo tanti anni di matrimonio. Ma se a un certo punto, dove normalmente c'era la statua, vediamo tutto impacchettato, ci chiediamo: cosa c'è lì sotto? Ti ricordi com'era? E quindi, stranamente, nascondere ci permette di vedere meglio e anche di apprezzare di più. Come nel matrimonio, lo dico anche alle signore in ascolto, probabilmente se doveste impacchettare vostro marito comincereste ad avere un po' di nostalgia e ad apprezzarlo di più. Così quella di Cristo era un'operazione forse concettuale ma anche molto pratica, ci permette di vedere meglio quello che vedendo tutti i giorni ci eravamo abituati a non vedere più. La stessa cosa ha fatto con le nostre vite il coronavirus. Eravamo abituati a andare al bar tutte le mattine a prendere il caffè, eravamo abituati a stringere la mano ogni volta che conoscevamo qualcuno, eravamo abituati a mangiare allegramente in simpatiche cene a casa di amici o anche, con meno soddisfazione del palato e dell'apparato gastrointestinale, nelle tristi mense aziendali. Eravamo abituati a aspettare i nostri figli all'uscita da scuola ammassandoci uno accanto all'altro. Eravamo abituati a invitare a cena una donna conosciuta qualche giorno prima cercando la sua mano nell'intervallo tra le portate. Eravamo abituati, magari a fine serata, a cercare il bacio di quella donna ed eravamo anche abituati a ricevere il no di quella donna che al momento giusto girava la testa, sicché anziché le labbra ci trovavamo a baciarle la nuca. Poi è arrivato il coronavirus che ha fatto esattamente come Cristo. Ha impacchettato tutta la nostra vita precedente in modo che abbiamo ricominciato a guardarla, a sentirla, a vederla come e più di prima. Le installazioni di Cristo mediamente durano 15 giorni e poi vengono smantellate, qualche volta un po' di più, ma sempre per un periodo molto limitato. Anche il coronavirus farà così. La sua triste installazione nelle nostre vite durerà ancora per un po' e poi inevitabilmente si ritirerà. In questo periodo di vite nascoste abbiamo avuto modo di vederle e apprezzarle meglio, poi tutto probabilmente tornerà come prima, con pregi e difetti, e però con il ricordo di questo periodo dove le nostre vite sono state così impacchettate che poi perfino ricevere un no e dare un bacio su qualche nuca ci sembrerà meraviglioso. Oh. Vedi, quando sei così, vedi, sei che cultura, poetico. Che cultura. Sei oltre che cultura, quindi arte, libri, praticamente con uno stipendio, l'auto devo dire, risparmiamo un bel po' di stipendi, quindi potremmo licenziare tutta una serie di persone qui a Radio 24. Ma so che appunto Alessandra Tedesco, che è la tua nemica, è in procinto numero di... uno. Sì. Cioè, tu sei il nemico numero uno di Miriam Lucchetti, ma... a tua volta tu hai una nemica numero uno che è Alessandra Tedesco, che vuoi rimpiazzare, ovviamente. Sì. E d'altronde è così. Quando la torta si fa piccola perché c'è la crisi economica, diventiamo un po' homo homini lupus. E quindi Leonardo Manera cercherà di cacciare. Alessandra Tedesco, sì. Eh sì, va bene. Oh, nella seconda ora di Uno Nessuno 100.000 avremo tante altre cose da affrontare. Oh, devo dire, vabbè, ma questa cosa del Trichini non ha preso molto. Ma chi se ne frega! Sì, sì, sono d'accordo, sono d'accordissimo. Anche guarda, questa è una posizione effettivamente che si può sostenere. La sostiene dalla regia quel maledetto di Carmelo Lauricella. Sai che domani non sarà più con noi, Carmelo? Ci sarà, sì, sì, ho saputo la buona notizia, sì, ho sentito. Vabbè. Ecco, devo dire che tutta la vicenda di De Donno sta diventando, con i complottoni sui social, tutti a dire sono spariti, ha toccato qualche interesse. Cioè, io veramente rischio, dopo essere stato uno dei primi qualche giorno fa, l'abbiamo invitato qui, rischio quasi di essere uno dei primi a volermi arrendere se prende questa piega, però vedremo nei prossimi giorni. Guido da Modena, buongiorno Guido. Sì, pronto, buongiorno. Eccoci, vai. Allora, sull'idea dei trichini effettivamente non si può sentire. Cioè, eccolo, è una lì. Cosa che non si può, no, veramente no. Quindi sempre i bikini, però sì. Uno dei pezzi è la mascherina. L'altro a scelta Cioè, peggio mi sento. A scelta, ah, cioè perché, tornerai perché... quindi al topless, dai, mettiamola al più topless, leggera. Ah, ecco, sì, sì, sì. Guido da moto dice, sì, invece di aggiungere andiamo questo. Per sottrazione. Vabbè, sì. Abbiamo capito che Guido da Modena calore che abbiamo parlano, capito che Guido sì. da Modena non ha in questo momento affetti stabili con cui convivere. Guido da Modena già sogna le spiagge di qualche tipo, insomma. Vabbè, senza trichini, ma anche senza bikini, quasi senza niente. E d'altronde, volevo fare questo tipo di questione. Non so se tu, Leonardo, hai colto sui Facebook, soprattutto sui social, una maggiore aggressività anche su quello che tu sì, scrivi. Ne abbiamo parlato l'altro giorno perché c'è stato il ritorno della rabbia che per un po' si era assopita. A me capita tantissimo. Una delle cose che più mi fanno imbestialire quando scrivi una cosa e qualcuno non è d'accordo è che questo qualcuno ti scriva: il lockdown ti ha fatto male, Che giustamente, come mi ha suggerito un'ascoltatrice, una che mi segue su Facebook e voglio salutare, Rosella, ha detto è la versione universale di ma c'è il ciclo, che sentiamo noi donne molto spesso da persone fastidiose quando c'è ma c'è il ciclo. Ecco, questa è la versione universale fastidiosissima. Il lockdown ti ha fatto male, vedo che la distanziamento sociale, l'isolamento ti ha veramente fatto un po' nervosire. No, ma dimmi cosa ne pensi, non c'entra niente il lockdown, peraltro parola insopportabile, quasi come Plato. Quasi come poi Plato. La cosa fastidiosa è che questi che fanno questi commenti si ritengono al di sopra, no? Pensano di essere dei fenomeni che invece ovviamente possiedono la verità assoluta, sarebbero tutti da conoscere. Bisogna fare un meeting di fenomeni, io lo farei nell'auditorium del Sole 24 Ore, un meeting di tutti questi fenomeni. Che hanno tutte le risposte del mondo e possiedono e poi sì, è troppo piccolo dai, giornale radio. Il segnale orario vi è offerto da Burro e Formaggi Brazzale, i più elevati standard di verde e benessere animale. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, hai capito chi comanda? Le case farmaceutiche. Ecco. Dopo che abbiamo visto il cane nel passeggino, ma cosa vuoi che sia il trichini? Anzi, secondo me è anche un po'... Alino? Viva il Trichini, viva Vanè Manera, Milan vecchio trombone. Signora Fusconi, due uomini che parlano dei trichini sono due cretini, giusto? Fa rima, certo. Rima baciata. Vabbè, niente, uno si impegna che... con tanti temi così, ma poi alla fine la gente si scrive sul trichini, ma tu ti rendi conto? Vabbè, tu hai solo fatto notare un articolo che era su non so quale giornale, su che quotidiano, il Quotidiano Nazionale, sì, il giorno, versione il giorno. Vabbè, sai che allora quelli che è chiaro, le case farmaceutiche, eccetera. Allora, oggi, sempre il giorno, ha un buon articolo sulla terapia al plasma, visto che ne abbiamo parlato. Vuoi sapere quanto costa la terapia al plasma? Visto che allora, da un paziente si estrae una sacca di 600 millilitri di plasma che serve per 2-3 dosi. Al servizio sanitario una sacca costa 172 euro di rimborso, incluse altre procedure di sicurezza. Si arriva in realtà sui 250 euro. Considerando che con una sola sacca si ricavano fino a 3 dosi, parliamo di poco più di 80 euro a dose. Quindi non è che sia proprio non costosa come procedura. Io non sono un esperto, leggo qua, ci sono dei medici che dicono questa cifra. E poi io non ho, una cosa non l'ho capita, Leonardo, poi magari ne parleremo, perché la contrapposizione vaccino plasmaterapia, cioè il vaccino è un farmaco per prevenire una malattia, mentre questa, la plasmaterapia, si applica sui malati, no? Non sono, cioè, non sono due versioni contrastanti. Mi permetto un po' di dissentire, perché da molti esperti abbiamo sentito dire che l'unica soluzione al coronavirus sarà il vaccino, ma se noi trovassimo invece una cura fattibile che funziona, prima il vaccino rimarrebbe in... cioè certo, la cura dico, serve allora ti sì, ma sono due soluzioni di tipo diverso, ma insomma io appunto, tendo a pensare però io... certo. Io tra le due soluzioni adesso non è che preferirei una cosa che ti fa non te la fa insorgere prima la malattia, non che la curi dopo. Cioè, se è possibile, la cosa migliore è neanche far ammalare una persona, o no? Su questo siamo. Certo, ma in attesa di un vaccino d'accordo. Per il quale ci vorranno comunque tempi più lunghi, se noi trovassimo una cura che funziona, sì, questo certo. permetterebbe probabilmente certo. di riaprire anche con maggiore serenità. Tutto ma qua. Io credo che su questo siano tutti d'accordo, è quella idea del che ci sono loro non si sa chi che invece ci, come scrive Michele Serra, non ci vorrebbero guariti, non si capisce, non si capisce bene. Comunque adesso dobbiamo dar voce, e sono contento che torni con noi, alla presidentessa del Comitato Vittime del Ponte Morandi. Egle Possetti, buongiorno e ben ritrovata. Grazie di essere qui. Buongiorno a voi, buona giornata. Ricordiamo che ha avuto una tragedia come tutti coloro che piangono i 43 morti del 14 agosto 2018. Egle Possetti, lei ha perso, se non sbaglio, la sorella, il cognato, due nipoti, insomma ha perso una tragedia vera di questa vicenda. Come avete vissuto la ricostruzione non completata ancora del Ponte Morandi? Come abbiamo accennato già varie volte, per noi vedere questa rinascita del ponte non è una cosa piacevole, non perché vogliamo rimanere all'età della pietra e senza i ponti, però pensiamo che una ricostruzione di questo tipo, veloce, insomma, sperando che sia fatta in modo ottimo, poteva essere fatta tranquillamente prima, avendo un ponte che doveva essere abbattuto e non un ponte che poi è caduto da solo. E quindi vedere la ricostruzione per noi è triste da questo punto di vista. Pensiamo che tutta la nostra tragedia, la tragedia anche economica per la città, eccetera, poteva essere evitata. Chiaramente questo noi, avendo perso delle persone, per noi la cosa fondamentale è la vita umana. E quindi vedere. L'abbiamo detto molte volte: non c'è nulla, ovviamente, potrà mai ricompensare le perdite dei vostri familiari, no? No. Non è veramente niente, perché comunque la vita ti viene strappata via così, e qualsiasi cosa non sarà più quella di prima. Anche se diciamo che giustamente, vista dal vostro punto di vista di prospettiva, anche il dibattito su che nome dare al Ponte Morandi, per carità, cioè un paese deve ripartire, voi dite magari vorremmo cercare prima di tutto di capire perché quel ponte è crollato, capire le responsabilità e punire quello gli eventuali colpevoli. Sì, questo è il nostro obiettivo primario, perché se non si riescono a trovare responsabilità, che spero non accada, non c'è una ripartenza vera, perché le persone devono capire che a fronte di un errore così grave e delle leggerezze così gravi, deve esserci un qualcosa che viene a cadere sulla testa di chi ha sbagliato, capisce? Non possiamo permettere che tutto venga fatto nell'assoluta impunità, e quindi è importante, secondo me, al di là del fatto che c'era la mia famiglia dentro, quindi capisce che il mio punto di vista è assolutamente particolare, però è importante per tutta l'Italia dare una svolta, perché abbiamo già avuto troppe tragedie che poi alla fine restano impunite. Allora, come dire, è un canale per fare, per permettere che ne accadano altre di tragedie, sì, no? Sì, sì. E quindi bisogna dare una risposta chiara. certa. Sì. Sì, su quel dibattito lei c'è anche decida il nome, a noi interessano altre cose. Leo, avevi una domanda per la signora? No, dicevo che in merito a tutta la vicenda, all'inizio sono stati fatti molti annunci, anche molto rapidi e immediati. E bisogna capire poi se a questi annunci ci sarà un seguito effettivo altrettanto, insomma, rapido. Questo forse è il problema. Sì, sì, ma lei si riferisce a, diciamo, al miglioramento di tutta la situazione autostradale? No, il fatto immediatamente toglieremo le concessioni, eccetera, come se gli eventuali colpevoli dovessero essere, diciamo, trovati immediatamente e poi ci fossero delle reazioni molto rapide, cosa che invece ancora in qualche modo tarda ad esserci, a quanto pare. Guardi, il problema è che purtroppo i processi hanno attualmente delle durate che sono decennali, perché purtroppo i vari gradi di giudizio, purtroppo per fortuna che ci sono vari gradi di giudizio, però la riforma della prescrizione che noi abbiamo auspicato come parenti, come vittime, perché non è accettabile che un parente non riesca per prescrizione a vedere la punizione di chi ha fatto una cosa così grave, no? Quindi non è accettabile. Poi i processi che devono essere sveltiti, non possiamo avere un processo come questo e come tanti altri che vanno avanti 10 anni, magari certo. Non ci saremo più quando finisce questo processo, quindi non ha senso questa lungaggine. E poi vabbè, il tema delle concessioni lì è una cosa estremamente complessa. Chiaramente il nostro punto di vista di parenti è che con una cosa così drammatica noi non abbiamo più fiducia in chi gestiva il ponte dove è transitata la mia famiglia. Sì, diciamo che un conto sono le responsabilità, e sappiamo che in Italia il percorso per accertarle spesso è lunghissimo, e quando vi si arriva, diciamo che dal vostro punto di vista, con la logica, che talvolta la logica ha anche un senso, dice scusate, le nostre famiglie sono passate di lì, le nostre famiglie, i nostri familiari sono morti lì, non ci sentiamo di avere lo stesso rapporto di fiducia con chi gestiva quelle tratte autostradali. Insomma, non è una considerazione da tribunale, ma una considerazione umana che mi sembra da accogliere, ecco. Quindi no. Il nostro intimo, il nostro cuore pensa quello, ma come noi penso molte persone anche che abitano a Genova, che insomma il pensiero possa essere abbastanza comune, no? E in ogni caso penso un po' come se io prestassi una macchina a qualcuno e gliela lascio un po' di anni, poi me la restituisce a pezzi e io dico vabbè, te l'ho prestata, però sta macchina insomma ogni tanto ci hai fatto qualcosa. Io la vedo un po' così, sì. Facendo un po' una metafora assurda, ma è un po' quello. No, pensiero. Ma è chiaro, un conto sono le considerazioni che verranno fatte in altre sedi, ma le considerazioni umane sono anche esse da tenere in considerazione. Noi per questo la ringraziamo, siamo qui quando vorrete, quando ne sentite il desiderio e il bisogno. Ringrazio Egle Possetti, che è presidente del comitato delle vittime del Ponte Morandi 43, ricordiamolo, 14 agosto 2018. Leonardo, andiamo a sentire un attimo il traffico, io non so più stare dietro ai messaggi sui trichini, quindi abbandono, non potendo stare, abbandono. Facciamo anche una puntata monografica sui trichini, appunto, domani. No, perché insomma, no, intervengono anche su altri temi un po' più pregnanti della nostra società, però questa cosa del trichini, noto soprattutto, come dici tu, tanti uomini, come dire, a cui il lockdown ha fatto male, ecco, lo dico io usando una delle cose che più mi dà fastidio. Dai, andiamo un attimo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Siamo qui, c'è Matilde da Milano, buongiorno Matilde. Sì, buongiorno. Eccoci. Volevo fare volevo fare un commento sulla questione Trichini, per quanto... Eccolo, vai, grande, vai Matilde. Per quanto argomento di non grande rilevanza... No, però finalmente una donna che parla di Trichini. Che pensi? Esatto, allora, io volevo dare un attimo di contesto. La mia famiglia è stata toccata in prima persona da questo virus, nel senso che mio padre è stato in ospedale per più di 40 giorni ed è un miracolo che sia ancora vivo. E, volevo solo dire la mia opinione, nel senso che questa questione dei Trichini non mi ha offesa in alcun modo. E anzi trovo sconcertante come vi siete scagliati rispetto a questo argomento. Che io. Leonardo ecco. No, lo difende, io mi sono scagliato. Esatto, ti do del tutto, ti facevo una persona abbastanza elastica, diciamo, quindi per un tema così tagliarsi con odio e distresso mi sembra odio no, un po' disprezzo l'ho detto effettivamente, ma sì, ma perché sì, mi sembra di volere un po' così inseguire, cioè non ne trovo il bisogno, ecco, di non ne trovo il bisogno, non è mettere un paio di jeans alla moda, cioè comunque mettere una mascherina che in questo momento ricorda il fatto che stiamo vivendo una tragedia, cioè non è che stiamo celebrando con la mascherina la nuova maglietta o il nuovo capo, no? Alla moda, no, così sì, comunque certo. Insomma, Matilde ha vinto Manina. Non mi spiego Matilde, no, non mi spiego come Matilde potesse considerarti una persona elastica. Eccolo là. Lo sapevo che lui doveva rincarare la dose. Va bene Matilde, grazie per le critiche. Ora la domanda che ci poniamo tutti è, ce la siamo posti in maniera un po' più leggera, dire: ma questa fase di chiusura porterà molte persone a fare figli? Che è un tema molto molto serio in Italia, paese dove non si fanno figli. Lo vogliamo chiedere al professor Antonio Golini, che, se si può dire, è un luminare della demografia in Italia. Buongiorno professor Golini, grazie di essere qui. Buongiorno a voi. Presidente Golini, illuminare dovrebbe illuminare, non è facile, però è un tema molto affascinante, la demografia. Ricordo che lei è stato anche presidente dell'Istat, ha scritto un libro dal titolo Italiani poca gente e ne abbiamo parlato anche qui. Allora, le prime proiezioni, ma ci aiuti a capire, non sono incoraggianti, cioè si pensa che non ci sarà un aumento delle nascite, anzi l'anno prossimo. Penso proprio di no. E il fatto è che un paese deve stare in equilibrio anche demografico, oltre che economico e sociale. E l'equilibrio demografico da noi è molto complicato, così con così poche nascite. D'altra parte, ogni tanto penso, io che sono ormai molto anziano, penso a una giovane coppia, perché mai dovrebbe fare un figlio in più? Se c'ha un figlio è soddisfatto e si ferma lì. Ma dal punto di vista collettivo, avere in media un solo figlio significa un tracollo, perché nel ciclo delle generazioni è ben ovvio che per ricambiare da tutti i punti di vista i genitori occorrerebbero in media due figli e non uno. Ma senta, lei professore dice scetticismo delle coppie giovani, per quali motivi? Ovviamente è sempre una serie di motivi, quello economico, l'incertezza del futuro, la paura anche legata a quest'ultima emergenza. Che cosa pensa che incida di più? Direi tutto quello che lei ha detto. E in più coincide il fatto che la scarsa considerazione sociale dell'avere un figlio, la ridotta valutazione del bene figlio come bene collettivo, oltre che come bene individuale. Oggi un figlio è considerato un bene solo dalla coppia e dalla, in particolare dalla madre, mentre un figlio ha anche è anche un bene collettivo. Una società, una popolazione, una società non può sopravvivere se non ci sono bambini. Questa sua considerazione, che è più etica, se mi passa il termine, che statistica, io la sposo in pieno. E forse si è visto maggiormente in quest'ultimo periodo, quando si dice i figli sono stati molto trascurati, i bambini, il benessere dei bambini, i diritti dei bambini sono stati messi un po' da parte, ecco, rispetto ai diritti degli adulti, mettiamola così, non crede? Credo di sì, ma soprattutto è stato trascurato il fatto che, ripeto, il bambino costituisce anche un bene collettivo oltre che un bene individuale. Però tutti capiscono che se in un bilancio familiare le uscite superano sempre e di molto le entrate, il bilancio non regge più. Ebbene, anche il bilancio demografico, se le uscite sono sempre superiori alle entrate, non regge più. Però per considerare un figlio come un bene collettivo bisogna che forse a monte ci sia un'idea forte di collettività, e forse non so se noi ce l'abbiamo in questo momento. E penso che lei abbia ragione. Purtroppo è così, insomma, è molto laconico ma vero. Senta, lei ha dichiarato al Foglio, chiuderemo con questa immagine, ovviamente è una sorta di metafora, ma in realtà vorrei capire quanto sarà davvero anche pratica, chiuderemo gli asili e riempiremo gli ospizi, che è una frase molto, molto dura, ecco, della realtà che ci aspetta. Anche perché comporta il fatto che si possano riconvertire tutti gli asili in ospizi, il che non è possibile. Non si possono nemmeno riconvertire i pediatri in geriatri, e non si può riconvertire tutta la forza lavoro. La verità è che una popolazione costituisce una struttura sociale e una struttura economica. E quindi la struttura sociale e quella economica ha bisogno di tutto e di tutti. In equilibrio. E quindi anche dei bambini, non solo dei vecchi. E soprattutto in equilibrio, quell'equilibrio che abbiamo perso. Senta, un'ultima cosa le chiedo è questa, professor Golini. Se si volesse riequilibrare questo squilibrio, quanti anni ci vorrebbero, ovviamente adottando le politiche giuste, per ritornare in una situazione di equilibrio? È difficilissimo a dirsi, però parecchi anni, ma soprattutto parecchia cultura e parecchia azione sociale, e manca in questo periodo sia l'azione sociale sia la cultura verso la nascita. La ringraziamo molto, professor Golini. Voglio segnalare il libro che ha scritto insieme al giornalista Marco Valerio Loprete, lo potete trovare in libreria, Italiani poca gente. Ripeto, il professor Golini, che è stato ha insegnato la Sapienza, è stato presidente dell'Istat per 2 anni, è accademico dei Lincei, è considerato uno dei demografi più importanti in Italia e non solo in Italia. Grazie professore. È interessante questa, secondo me, visione, per cui per stimolare la nascita di figli bisogna lavorare non solo sulle coppie ma su un'idea più generale di società. Eh sì, di collettività, e giustamente, come hai detto tu, non c'è, ed è stato molto emblematico nella sua risposta: sono d'accordo con lei, punto. Tante volte non puoi c'è dire, da aggiungere. Puoi dire molto a Miriam di Lucchetti più, di segnarsi questa frase che ha detto il professore, così, senza polemizzare. Sì, così. Sì, ma Miriam Lucchetti starà subito chiamando il professor Golini a dire: guardi che non è come pensa, perché Leonardo Manera in realtà sotto sotto non è proprio così, in realtà ha questi difetti, e uno e due e tre e quattro e cinque. Comunque vorrei tornare a bomba sul tema: vogliamo il bikini, ragazzi? Ma perché ho tirato fuori questo tema del bikini e del trichini? Ma chi me l'ha fatto fare? Colpa di Fusconi, è colpa di Fusconi che stamattina mi ha detto: guarda questo articolo sul bikini, il trichini parla solo di questo, chi se ne frega del tema della mafia, chi se ne frega della plasmaterapia, chi se ne frega di quello della demografia, questi temi barbosi, noiosi, pesanti, parla del trichini. Chissà se in Svizzera va il trichini, dovremmo scoprirlo dopo la borsa, non lo so. Comunque vogliono il bikini per Manera e Milan, costume e mascherina, costume e mascherina. Luigi ce lo chiede. Tu, Leonardo, che tra l'altro, a proposito di Svizzera, ho fatto una volta il bagno in un lago svizzero. Devo dire che è una delle esperienze peggiori della mia vita. Sì, freddo, poi... veramente un'esperienza quasi sgradevole, devo dire. Un lago che c'è lì in un canton Ticino. Cosa c'hanno i laghi svizzeri adesso, obiettivamente? Ma adesso, diciamo la verità, i laghi italiani... No, con i sassi, l'acqua fredda, un po' melmosa. Adesso, i laghi italiani... Melmosa, adesso, diciamo, ma che lago è? Sì, è ma dalle parti di Ascona... Dalle parti più che di sfida Ascona. Lucchetti è proprio una sfida, è una sfida Fusconi questa, perché... Non lo so, vabbè, ce lo racconti tra un attimo. Dalle parti di Ascona, quel giorno in un lago dalle acque melmose. Bello, è un inizio di romanzo stupendo. Vai, borsa intanto. Uno, nessuno, 100 Milan. Eccoci qua, allora alle 10.36 minuti, caro Leonardo, eravamo rimasti in un pomeriggio assolato o forse plumbeo in quel di Ascona, in un lago imprecisato in Canton Ticino nel quale ti sei immerso, e c'erano le acque melmose, i sassi sotto i piedi, poi? Sì, no, nulla di speciale, ero a fare uno spettacolo quei giorni ad Ascona in un teatrino di un mago che si chiama Fantasios, che è conosciuto perché fa... Cosa c'è? Mago svizzero. Sì, svizzero. E Fantasios, che è conosciuto... Scusa, per... come parla? Com'è che fa i trucchi? Lui parla un po' veramente così, parla in questo modo, un po' da Canton Ticino. E fa apparire, è noto per far apparire pappagalli. Fa tutto un numero in cui fa apparire Alfonso pappagalli. Alfonso Paganetti, in arte il mago Fantasios. Il ritorno del mago Fantasios. Sono stupendo. io ero lì a fare spettacolo, sì, sì. Sì, sì, chiamiamolo, si ricorderà. Ero a fare spettacolo nel suo teatrino, no. E io gli ho detto: cosa posso fare durante il giorno? Lui mi ha detto: ma va a fare il bagno nel lago, se c'è più vicino. Sperava che morissi, forse. E io ricordo un'esperienza melmoso. Sì, un'esperienza non proprio entusiasmante. No, senti, però. Cosa succede? Cosa succede? Leonardo, le acque svizzere non me le insulti. Cioè, mi viene veramente il prurito alle mani. Non ho potuto fare a meno di intervenire, venire qua e appropriarmi di questo microfono. Ma che lago qual è era intanto, il problema del lago d'Ascona? Lago d'Ascona, tra l'altro, è in gran parte in Italia anche, per cui se era melmoso là, se era... poco piacevole là, lo era anche sul territorio italiano. Ma ecco, le acque svizzere sono cristalline, sono per uomini veri, per uomini con la tempra fisica, sono fredde queste non acque, che, bisogna non reggere. Uomini che sfoggiano il trichini, ecco, diciamo. Io ricordo solo io ricordo solo che l'acqua era fredda, il fondale era tutto di sassi aguzzi, l'acqua era anche un po' melmosa e ero lì con la mia fidanzata di allora e dopo aver fatto il bagno abbiamo anche litigato. Pure, una giornata veramente nefasta. Io avrei... E poi ha finito la serata col mago Fantasios che faceva esatto. I trucchi così. Faceva apparire pappagalli. Allora, io vorrei approfittare di questo piccolo e breve spazio per dire la mia sul trichini, se vi interessa. Sì, certo, vedevamo l'ora, come no. Perché io auspicherei con veemenza che Conte, nel fantomatico decreto aprile, che sarà poi luglio a questo punto, introduca per legge l'obbligo del burkini quest'estate, non del trichini, il burkini, ma per tutti, per uomini e per donne, perché non so voi, io sto lievitando in questa quarantena, mangio come se non ci fosse un domani e quindi mi piacerebbe vedere quest'estate spiagge piene di burkini che potrebbero d'altronde nascondere. D'altronde Elisabetta Fosconi stamattina appena si è svegliata alle 7:30 ha detto devi tu rivoluzionare la scaletta perché bisogna occuparsi dell'unica notizia. Il trichini era interessante, indubbiamente interessante, si è visto dal monte di messaggi arrivati. Certo. Leo, torneremo ad approfondire questa questione delle tue brutte esperienze con l'acqua svizzera. Mago Fantasios, io voglio conoscere il mago Fantasios. Allora voi mettete la moneta così e poi dopo tirate fuori la moneta, va bene. Guarda che era molto bravo nel far apparire animali, facevo tutto un numero dove comparivano animali e ricordo che avevo un grosso cinturone, lavorava con questo frac ma con un cinturone. Vabbè. Torno al lavoro. Ciao Baba, torno al lavoro, anche perché noi dobbiamo dare attenzione voce a un sindaco che sta pedalando, non lo so se sta pedalando anche in questo momento o se si è fermato per noi. È il sindaco di Divignano, siamo in provincia di Novara. Gianluca Bacchetta, buongiorno. Buongiorno. A questo punto lo spettacolo con Mago Fantasius lo voglio vedere anch'io, però. Esatto. È diventato un idolo per me. Mago Fantasius. Fino a Roma, ecco, facciamo così. Ecco, fino a Roma, signori, il sindaco è partito da Divignano in bicicletta. Forse l'avete visto in TV. Sono partito a piedi. Adesso però. Poi dopo due giorni mi hanno visto disperato e mi hanno regalato una bicicletta. Dopo altri tre giorni mi hanno visto ancora più disperato e mi hanno prestato una bicicletta servo assistita con la pedalata assistita. Si fa un pochettino meno fatica. Cioè, arriverà in moto praticamente. Ma lo spero. Arriverà in moto. Lei è intenzionato ad arrivare a Roma. Quanti chilometri sono da Divignano? Da Divignano sono 650 chilometri. Me ne mancano 300, penso, più o meno 300. Lei vuole restituire, lei è titolare anche di un ristorante, birreria, Pombia, e vuole restituire di fatto i 600 euro a Conte. Sì, a Conte è un aggetto sicuramente provocatorio. In questa situazione, dopo tre mesi di chiusura, dopo dipendenti che non prendono la cassa integrazione, avere ricevuto questi 600 euro veramente mi sono sentito un po' preso in giro. È una cosa provocatoria, la mia non è una marcia su Roma come molti l'hanno interpretata, così è una forma di protesta che mi fa stare bene, che dovevo fare per me stesso. E in più mi sono fatto portavoce di tutti i piccoli imprenditori per la parte della mia protesta in quanto piccolo imprenditore. E voglio essere portavoce anche di tutti i sindaci dei piccoli paesi che in questa terribile emergenza siamo stati un po' lasciati in balia di noi stessi a prendere decisioni a cui non eravamo preparati. Insomma, il manuale del bravo sindaco non esiste. E se fosse esistito, la voce pandemia probabilmente non ci sarebbe stata. Ecco. Questo sì, questo per tutti, anche per il Premier, ecco, mi faccia spezzare una lancia. Io sono il primo critico, però non è facile gestire questa situazione. Penso che se avesse avuto la bacchetta magica e avesse potuto far finire questa cosa istantaneamente, penso che il primo ministro l'avrebbe fatto istantaneamente, quindi tanto di cappello anche al lavoro che sta facendo. Ci sono magari degli errori che magari così mi faccio notare che il sindaco signor Bacchetta ha detto che ci vorrebbe la bacchetta magica. Infatti. Il sindaco Gianluca Bacchetta. Vabbè, ma lei, cioè, si è svegliato e ha detto prendo e parto, devo fare questa cosa. Mi sono svegliato e ho detto prendo e parto, perché probabilmente avrei cambiato idea e non l'avrei fatto se ci avessi pensato su troppo tempo. No, l'ho pensata giovedì mattina e venerdì mattina sono partito in ciabatte, pantaloncini e maglietta. Senza è faticoso niente, 600 km, cioè, pensando di farli più, a piedi. La facevo più facile, è una forma di capacità. Ma cos'è? Una forma di disobbedienza civile, perché lei sta passando comunque da una regione all'altra. Allora, anche qua a livello di provocazione, intanto non vuole essere un incitamento alla disobbedienza, tant'è che sono partito da solo, non nego che in questi giorni tantissime persone avrebbero voluto aggregarsi, se avessi fatto un po' di pubblicità saremmo stati in mille, non sarebbe stata più una protesta, sarebbe stata una manifestazione che io assolutamente non volevo. E poi, visto che si tratta di provocazione, sempre simpatica, ma provocazione, io ho ricevuto un ordine da parte di un mio amico di Roma di portargli una birra, e siccome posso fare consegna a domicilio ho questa birra con tanto di autocertificazione, l'indirizzo dove devo portare questa birra. Ah, stupendo, cioè, perché lui giustamente avendo una birreria, caro Leonardo, sta facendo una consegna di lavoro, sto facendo delivery, questa parola tanto sto facendo delivery da Divignano a Roma, sta portando una birra. Beh, ragazzi, la genialità italiana, sindaco, dopo si dice le eccezioni, quando arriva a Roma lei dove si dirigerà? Diretto a Palazzo Chigi? Chigi dov'è? Chiederò, spero che mi ricevano, insomma, adesso a parte lo scherzo, il ridere, perché un po' d'allegria ci vuole sempre, e comunque una motivazione seria la mia, e spero che veramente dopo tutta questa fatica... Ma dove dorme tutto, lei? Scusi, adesso vorrei sapere tutto. Mi hanno ospitato delle famiglie, mi hanno ospitato in alberghi chiusi, mi hanno ospitato in garage, sempre di distanza personale, sempre stando attenti... mascherina e quant'altro, sì, e mi hanno ospitato le persone. Ho potuto constatare la solidarietà del popolo italiano, che siamo delle persone splendide, fantastiche, cioè un piatto di e pasta adesso non me l'hanno negato nessuno. Sì, sono in direzione Grosseto, sono partito stanotte, ho dormito a Cecina e sono in direzione Grosseto. Domani andrò a Viterbo perché mi aspettano per una specie di festa, devo firmare un sasso storico, non l'ho ben capito, e quindi allungherò la mia strada verso Viterbo. Sì, mi aspetta il sindaco e un'associazione culturale fantastica che mi hanno invitato, e quindi non posso. Quando mai mi ricapita di andare a firmare un sasso nella mia vita? Quindi... Leonardo sta diventando più famoso nel Mago Fantasio. Ecco, il Mago Fantasio è quello che mi porterà avanti fino a Roma comunque. Ma anche se per tutt'altro motivo, ma la sua vicenda mi ricorda la canzone Bomba o non bomba di Venditti, se la ricordi. Me l'hanno dedicata ieri, di Francesco Venditti. Esatto, Antonello Venditti. Ci risentiremo, non lo so, le faremo compagnia in questo viaggio. Fate compagnia, Gianluca. Guarda, se mi richiamate sono veramente contento di aggiornarvi sulle mie vicende. È una cosa certa, che dopo questa avventura penso il sedere su una bicicletta di non metterlo mai più in tutta la vita. Pensi ai ciclisti. Non so come fanno, mi hanno dato dei consigli, ma non... Deve avere il sellino adatto, ce l'ha il sellino adatto per preservare da sofferenze in quella zona? Quello con l'apertura, sì, il sellino. Ce l'ho. Mi hanno anche consigliato di toglierla, qualche maligno, mi ha detto che avrebbe fatto meno male, però... Quello no, consiglierei di no. Ringraziamo il sindaco di Divignano, Gianluca Bacchetta, in viaggio, prima a piedi, ora in bici, verso Roma per portare, un po' provocatoriamente, restituire i 600 euro che ha ottenuto dallo Stato. Li consiglierà il Premier se lo riceverà. Vedremo, intanto andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Don't you tell me that it wasn't meant to be. E come sempre, siccome io faccio zapping fra le radio la mattina, voi fate del gossip, un pochettino di propaganda antigovernativa, perché quella non mai sempre vi porta qualche punto in più. perché Milan ama lo strappaca, lui De Amici, lui e De Amicis sono un unico concetto. Io? Lui deve sempre fare le cose o strappacore o puntare il dito di Fra Cristoforo, è una roba così, è un, non Fra Tacchiano, sta parlando di te, sta parlando Milan, non sì, Milan. Sì. Nozionale, capito? E basta, no, ma punto senza a te, tanto ragionamento razionale, è tutto così, tutto sentimentale, tutto irrazionale, Fra Tacchiano sentimentale, così, cioè lui fare un ragionamento veramente razionale, mai. Oggettivo, hai No. La fede. Capito? O fede di qui o fede di là. Oggettività poca. Poca. Grazie, cara ascoltatrice, anche a lei. Ha ragione, niente sono contro d'accordo. Manera. Sono d'accordo. Mamma mia, no. Sono d'accordo con la signora. Ecco, no, mandiamo l'inno del mio partito, partito super sovranista italiano. Ti difende ogni giorno di più. Allora, no, ma non deve cantarlo, sennò risulta in ritardo di qualche secondo. Sono rientrato. Sono Giampaolo, sì. Detto Geppo Garosio. Geppo Garosio, ieri mi ha tagliato, mi ha interrotto. Sono, sì, ho fondato il mio partito, Partito Super Sovranista Italiano, PSSI, PISI. Sono intervenuto ieri. Lei non mi ha fatto terminare perché lei è a servizio dei poteri forti. Lei c'era la sigla di chiusura. E quando qualcuno come il sottoscritto Garosio, sinonimo di verità, dice la verità, viene interrotto. Geppo vuol dire verità. Questa è la direttiva che lei ha ricevuto dai suoi capi: interrompere Garosio. Lo abbiamo capito tutti. Io ho trovato. Mi lasci dire la guarda che abbandono lo studio. Se lei continua a interrompermi, mi inalbero. Ha capito? Mi sto inalberando. Grazie al sistema che non siete altro. Ecco. Cominciamo a dire le verità. Allora, caro Milan, io ho trovato una fotografia dove lei è insieme a Soros, dove lei è insieme a Bill Gates, dove lei è insieme a Gio Paperone, vale a dire i poteri occulti che governano le nostre vite senza che nessuno glielo abbia chiesto. Non sarebbe niente di male con Bill Gates. C'è un prezzo per tutti, anche lei avrà ricevuto i suoi 30 denari, fariseo. No, mi faccia proseguire, altrimenti mi inalbero, mi sto inalberando. Sì, allora, guardi che, come dice il proverbio, chi va col canguro impara a saltellare. Cosa vuol dire? Ma che se lei mi così, interrompe proprio di continuo, poi la interrompo anch'io, abbandono lo studio. Chi va col canguro impara a saltellare. Allora, io sono Geppo Garosio. Mandiamo l'inno del partito super sovranista italiano. Ma lei dei concetti più profondi, no? Lei è Geppo Garosio. Ecco qui. Pissi anche tu. Senti che bello. Che bello, perché io sono un vero sovranista, sono un vero sovranista, non come Matteo Salvini che adesso con quegli occhialini che porta sembra un radical chic. Io rappresento i veri sovranisti italiani. Realizzato, non mi interrompa, mi inalbero. Sono qui per dire la verità, perché chi dice Garosio dice verità, parola verità, di Geppo. Sì. Allora, perché sono intervenuto oggi? Perché sono intervenuto? Perché? Non mi interrompa, piegato. Allora, lei è piegato. Ci vogliono intrappolare con il... L'immagine è bellissima. Lei va bene. Geppo Garosio, signor. Lindo. Ci vogliono intrappolare, non c'è bisogno. Allora, ci mandiamolo. Sì, facciamo entrare nella testa questo inno che difende veramente gli italiani e non i piegati come lei. Piegati. Allora, al sistema. Perché è qui il signor Geppo Garosio oggi? Cioè, chi l'ha fatto entrare? Ci vogliono intrappolare con il MES. È vero o non è vero che ci vuole intrappolare con il MES? Chi ci vuole intrappolare? Gli olandesi. E allora io sa cosa le dico. O come Olanda, paese noto per gli zoccoli, la droga e la prostituzione. Non per niente si chiama Paesi Bassi, perché non ha mai saputo elevarsi con cose un po' più importanti. E noi dobbiamo prendere lezioni da un paese noto solo per gli zoccoli, la droga e la prostituzione. Noi abbiamo avuto geni come Leonardo da Vinci, e loro che hanno avuto, forse hanno avuto Van Tacken, il creatore degli zoccoli, e noi dobbiamo prendere lezioni da loro. Ma si ricordi, caro Mila, che chi va in Olanda per divertirsi, chi va in Olanda per divertirsi con i soldi dei contribuenti, ecco, chi, come dice il proverbio, chi entra in mare esce salato. Chi va come lei in Olanda a divertirsi con i soldi dei contribuenti, chi entra in mare esce proverbi... salato. Cioè, e poi da chi dobbiamo prendere lezione? Dagli svizzeri, dagli svizzeri, che sono famosi perché sono famosi? Perché hanno le strade pulite, come se fosse chissà cosa. Tutti dicono la Svizzera è pulita, è spulita. Allora, noi abbiamo avuto Michelangelo Buonarroti e loro hanno le strade pulite. Noi abbiamo avuto Michelangelo e loro al massimo hanno qualcuno che sa passare l'aspirapolvere. E noi dobbiamo prendere lezioni da loro. Ma scherziamo. Guardi, che se lei continua a interrompermi, caro mio, come dice il proverbio, le ossa sono fatte di calcio, ma coi calci si rompono. Ecco, non mi faccia dire altro. E poi, per finire, da chi dobbiamo prendere lezioni? Dagli svedesi. Gli svedesi, bravi gli svedesi, che sono noti perché hanno le loro donne, le svedesi, che sono disinibite. Allora, dico io, se darla via facilmente diventa una nota di merito, mia cugina la facciamo imperatrice. È vero o non è vero? E noi dobbiamo prendere lezioni da loro, anche dagli svedesi e dalle svedesi. Guardi, la mia pazienza ha un limite, come dice il proverbio, l'acqua scorre finché c'è una diga, l'acqua scorre finché non c'è una diga. Perché poi quando arriva la diga, quando è arrivato Garosio, che è la diga, allora cambia tutto. Garosio è la diga. Allora, la verità qual è? Garosio è la diga contro i piegati. Piegato, parola di Geppo. Non si inalberi. Questi paesi che non hanno niente da insegnarci, sotto la guida occulta di Soros, Bill Gates e Zio Paperone, stanno cercando di soggiogarci economicamente perché noi mentalmente siamo superiori e io ne sono l'esempio. Parola di Garosio, mandiamo l'inno. Ecco. Ricordatevi, Partito Super Sovranista Italiano, PSSI, vota PSI. E non i piegati. Sì, ma lei dove si candida? Alle regionali, alle comunali? Io mi candido in tutta Italia, in tutte le circoscrizioni, in tutti i comuni, in tutte le province e regioni, per portare l'Italia ai veri italiani, che non sono piegati ai poteri forti. Va bene, signor Geppo Garosio, è contento dello spazio che ha avuto, visto che non l'ho interrotta? Lei mi ha interrotto di continuo. Non mi ha permesso di esprimere compiutamente il mio pensiero. Allora, se lei, come già la conosciamo tutti, l'espresso, sentiamo benissimo cosa dicono gli ascoltatori, che ormai la denigrano apertamente. Prima c'era una forma di rispetto dovuto al mezzo. Senti, tira giù il microfono. Basta, Garosio, giù il microfono. Facciamo come Cruciani, giù il microfono a Garosio, basta. E vi prego, facciamo una piccola ordinanza di non farlo entrare più in studio, va bene? Adesso, se se n'è andato via, signor Garosio, può ritornare il buon Manera per l'urlo finale. Se n'è andato via, tu hai notizie, Leonardo? Guardi, lei continua a interrompermi tuttora. Trovo un atteggiamento veramente... Giù Garosio. È tornato Leonardo? Vediamo un po' se... Via, Garosio, via! Leonardo non lo conosco! Se vuole via, giù, va bene. Garosio abolito, Geppo Garosio, mettiamo una croce sopra. Niente, a domani. Uno, nessuno.